qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere distintivo. E sì, e sì. Si ritorna a 22:44 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, il numero lo sapete. Five o'clock comunque, senza interruzione, anche quando il vecchio, obsoleto, stanco titolare se ne va in vacanza. Ah sì. E stavamo dicendo proprio con il buon fantasma adesso, ti ricordi quando probabilmente parleremo ai nostri nipoti, ai nostri pronipoti, non so, da vecchi rincoglioniti più ancora di quello che siamo ora, con una strana forma di Alzheimer che magari ci fa attraversare anche i ricordi del passato, e appunto diremo: ti ricordi quando andavamo a lavorare tutti i giorni e si lavorava 8, 9, 10 ore al giorno, ci si svegliava la mattina presto, e ora invece ci basta lavorare 10 solo minuti al giorno. Oh mamma mia. Sì sì, devo aver preso qualche sostanza illegale, eppure non l'ho presa, che c'ho delle visioni dall'altra parte del vetro, ma sorry, no, dico, forse stai mutando, ti stai autoproducendo, non lo so. Ah sì, forse sto producendo, però c'è una visione strana, inquietante, e peraltro inconsueto in radio, non c'è mai lui praticamente. È una presenza, sì. Sembra da questa parte, da qui sembra un mostro in gabbia. Sembra un mostro, ma poi sì, è vero. Dall'altra parte, quindi, per fortuna, dall'altra parte dell'acquario, del vetro che ci protegge, ma ahimè, vedo che si avvicina. Ai noi entra. Ci arrendiamo. Alcuni lo chiamano Erbanana, ma lui non ama tale apostrofo. Dai, facciamo i seri. Allora, diciamo tutti i contatti della radio. www.ondarossa.info è il sito di Radio Onda Rossa. Andando a cliccare su Ascolta la diretta avrete modo di ascoltare anche Erbanana e tutta Radio Onda Rossa da ogni parte del globo terracqueo raggiunto dalla rete web. 0649175050, recapito telefonico, lo conoscete. Andate a cliccare sempre dal sito su Sostieni, troverete tutte le modalità per sostenere Radio Onda Rossa. E ancora, ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione della radio. 25 o'clock@ondarossa.info. La mail per sottoporci quelle che sono le vostre proposte musicali, i vostri MP3, quello che vi pare, i link. Fateci ascoltare musica che dice qualcosa. Poi c'è anche pure metallo volgare, chiocciolaautistici.org, più o meno detto bene. E infine, ricordando che questa radio vive grazie al vostro contributo, sia in termine ideologico, addirittura, sia in termine monetario. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma, San Lollo. Comunque, se lui stapperà il suo chinotto, noi stapperemo la nostra birra. Allora, puntata un po' inquieta, certo, perché torniamo dai monti ed è un'altra vita lassù. Ed è l'inquietudine che subito si prova in questo contrasto con la metropoli di acciaio e cemento. Quindi suoni stridenti, dissonanti. Non proprio il mostro che si divincola e agonizza di prove tecniche di trasmissione, ma iniziamo con Gone Moon, un duo a metà fra i Queen of the Stone Age e Marilyn Manson, nel senso che i componenti vengono da queste esperienze. Balloon. Eh sì, perché avete sentito lo spot. Quello della strada. Si parla e dopo si balla. Con il rocco e il rollo. E loro li avete sentiti qualche mese fa qui al Forte. E sono peraltro di ritorno per i primi di aprile, sempre al Forte, con Finn Katz. The Way of the Road. A sostegno della campagna 10%. E quindi Benefit Genova 2001, venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo. Diritti fuori legge, lo Stato non ha sempre ragione. Ne discutono il CSA La Strada, Patrizio Connella e la compagna 10%, Francesco Romeo, il Core, un caso basco a Roma e Radio Onda Rossa. Quindi dibattito alle ore 18 del 22 marzo, alle 19 piccolo aperitivo basco a sostegno della campagna, un caso basco a Roma, e sabato 23 marzo dalle 22 in concerto Bomb Machine, Blind Birds, Romanez, Sunglasses After Dark, Tutti Frutti Apocalypse DJ Set, Rock and Roll Punk Rock Surf e Psycho, DJ Mars, DJ Murder Farts, DJ Luna Barracuda. Iniziative a sostegno delle spese legali di Alberto, condannato per i fatti di Genova 2001. Il tutto, appunto, ricordiamolo, centro sociale occupato autogestito La Strada, 22 e 23 marzo, venerdì e sabato prossimo. e sì, si ritorna nella metropoli. Buone notizie, ci dicono i calibro 35. E noi ritorniamo al vecchio genio di Doug Scarin. Quando era l'inizio del 2000, la fine degli anni 90, Doug Scarin passava dai Juno 44, che ascolteremo più tardi, agli Him. Si trattava di una band sperimentale, appunto, che nasceva dalle ceneri delle, o almeno da una costola, dell'ambiente del post rock, per andare a contaminarsi di jazz, però abbastanza, come dire, lisergico, come in questo caso di questo lavoro degli Him. Si chiama Where Horns, la traccia. Un disco molto celebrato, non proprio da noi, o almeno nel nostro ambiente, nel nostro spazio radiofonico, però un disco piuttosto seminale, diciamo, per quegli anni. We'll be right back. Antonian. Perché qua in studio si parla di sostanze. Psicoattive che si diffondono nei periodi di crisi. Stupefacenti distribuiti ogni qualvolta la società vive profonde spaccature. E questi sono gli Zoo, che in questa Ctonian, tratta dall'album Carboniferous, si avvalgono della chitarra di Buzz Osborne, King Buzzo, dei Melvins, con i suoi lunghi capelli dritti in testa, elettrizzati. Mente aperta. Questi erano i fuochi degli Zoo. Tenete la mente aperta. Ai complessi edifici dissonanti degli Zoo, altre complessità, però più piane, più lineari, più direttamente connesse al vecchio punk da capo, edito dalla Southern Record. Una scaletta questa sera, almeno in questa parte centrale, pensando anche ai suoni che piacciono al Bommati. E pensando sempre agli Antidoti, The Metadone Actors. Good Save the BPK era il nome di questa band, dove l'acronimo ABPK significa Atom Bomb Pocket Knife. da capo. Disaster news, faster and it turned pretty ugly when it's on. 23:24 minuti primi, onda rossa. In rapida successione, Ctonian degli Zoo, The Metadone Actors, Goose Save, The ABPK, Peace Gin, Bad Winds. E non poteva mancare il disco seminale per il post-rock. Stiamo parlando del 1991. Spiderland, Slint, Don Aman, la terza traccia, la più tranquilla del sei tracce. Primo disco degli Slint nel 1991. Thank you. Revealed in Fever. Lui è John Lally. Al flauto e alla chitarra qui Elisa Abela. Alla batteria Emanuele Tommasi, almeno per il disco. John Lally, abbiamo cominciato così a ad aprire la mente da quelle che erano le sclerotiche meccaniche complicate del post rock, post punk, però rimanendo comunque in questa ambivalenza, in questa complicazione. Mai completamente del tutto rilassati in questo conflitto. Di produzione, fuga dalla produzione. Di libertà attraverso la schiavitù, passando i chiavistelli. Attraverso le esperienze. E questo è ancora Doug Scarin. Però, come dicevamo poc'anzi con Juno 44, e questa è una moderna ereditario passo di danza. Modern hereditary dance step Juno 44. il cambio di comandi qui a Radio Onda Rossa. Dopo il ritorno del professor Fefo. ...23.42.87.9. E noi andiamo a cambiare registro. Il prossimo pezzo è un degno tributo al Banana. Loro sono i Warrior Soul. Ed il pezzo è Punk and Belligerent. My world. ed abbiamo ascoltato da Salutations from the Ghetto Nation, disco del 92. E già sotto sentiamo i Voivod. Questa invece è un'ultima uscita. Ed appunto da Target Earth. Ci andiamo a riascoltare da capo. Kaleidos. Yeah. questi erano i Voivod del loro ultimo Target Earth. Adesso invece ci spostiamo a Roma. E ci andiamo ad ascoltare un progetto di una one man band. Fa tutto lui e si chiama The Blues Against Youth. Ce lo ascoltiamo con Become the Whiskey. Thank you. sun hides and winter winds wail. The perfect ship, fully equipped with everything but the sails. I worship the strong power of song, the lifestyle of man did I choose. Accepted the quest, climbed to the crest, and from the top I saw you. I thought that I had a license to fly, shook his hand and I looked in his eye. To my dismay, I was betrayed and my fortunes have turned into lies. To dream, believe is harder it seems. Wisdom of age as a tool, but I wouldn't trade one single day. Because of the storm I found you. Drifts where the summer light beams. The morning dawns, the masted stand strong, and the sails are spun for my dreams. E sul finire del pezzo di Guaino, che andava ad aprire a Drift. Andiamo ad introdurre il prossimo pezzo, che è un'anteprima dell'ultimo disco che uscirà per i Cathedral e dovrebbe essere proprio l'ultimo in assoluto. Yeah. I don't care. Maybe I just don't care. Poiché hanno deciso di non suonare più insieme. I don't care. Maybe I just don't care. Well, I go where I want, Lord, I do just what I dare. Ed il pezzo è Tower of Silence, che andrà a comporre il disco della Spire. I don't care. Wear my head down to my knees. We'll be right back. E questo è il sound granitico dei Cathedral. We'll be right back. Ciao, Fanny. Ciao, sì, è stato bello per fortuna, c'è fuori. No. Pure questa è una fregatura. Ehi, bello! Chissà quanto. Quanto sei frustrato, credo. Hai passato di tutto, tanta strada per niente, quindi niente soldi e niente fama, cose che meriti il bello perché sei fantastico. L'arma a punto di vista svolge precisamente la funzione che il suo nome suggerisce. Fantastico! Fantastico, bello, fantastico. Tu. Se la si punta verso qualcuno e si tira il grilletto, all'istante l'altro vedrà le cose dal vostro punto di vista. Dammi quest'affare. Fu progettata da Pensiero Profondo su commissione di un consorzio intergalattico di casalinghe arrabbiate che, dopo innumerevoli discussioni con i loro mariti, ne avevano fin sopra i capelli di finire le suddette discussioni con la frase «Non riesci proprio a capire, eh?» Oh! E hai ragione, non devo starci così male, perché la vita scorre, no? E noi dobbiamo scorrere con essa. Sparagli ancora. Ehi! Hey! Wow! No! L'autostop è bello, e anche gli asciugamani. Dicevamo? Geniale! Che succede? Mi piace. Ehi. Posso capire perché un macavula ne voglia una. Beh, sarà meglio tornare, Arthur ci aspetta. Sì, frega qualcuno? Oh, beh, a me, soprattutto adesso che siamo una specie in via di estinzione, grazie a te. Perché così tesa, bambolina? Rilassati. Perché così tesa? Vuoi sapere perché sono tesa? No. Sei tesa, sì! Il tuo pianeta è esploso e tu vai a zonzo per la galassia col tizio che ha firmato l'ordine. Tu volevi conoscere la domanda perché hai sempre pensato ci fosse altro nella vita e ora sei a pezzi perché hai scoperto che invece non c'è. Ehi, fantastico, eh? Psichedelico. Non hai una casa, non hai famiglia e stai con me, un altro di una lunga lista di uomini che in realtà non ti capiscono. Questo non è vero. Ho detto... E hai paura di aver perso l'unico che ci riesce davvero. Ehi, ups. Oh, bambolina. Dammi questo affare. Non va su di me, sono già una donna. E questa sera, direttamente dalla guida galattica per autostoppisti, ci è venuto a trovare il Banana. Che non a caso esce da casa, unicamente esce da casa se ha con sé un asciugamano. E sotto abbiamo ascoltato i My Sleeping Karma. Dalla Germania, questo è l'album Satia del 2008. Instagram da Review Your Choices. Invidiamo lo spirito, anzi no, invidiamo il banana in carne ed ossa. Lo spirito sono io. Quindi presto il banana ci andrà a proporre la sua scaletta. E forse lo sentiremo anche in voce. Una scaletta giamaicana. Ma c'era una battutaccia così molto coatta che si faceva. Ma che sei da Giamaica te? Allora Giamaica. Invece il prossimo pezzo lo dedichiamo a Armagna Dizers. Che quando il prof non c'era è venuto a ballare qui a Radio Onda Rossa. Ma ha ballato pure sul tavolino, perché ancora ci stanno le impronte. E poi la copertura del nostro tavolino, insomma, del banco su cui appoggiamo. È fatta apposta. Dai, e questo è per te. Ministry, New World Order. We'll be right back. Ah. Vuoi fare A? Hanno fatto A. Io. Ha fatto io. What we are looking at is good and evil, right and wrong. A new world order. E questa è musica giamaicana. Loro si chiamano Bad Brains, i cattivi cervelli. E sono HR, Daryl, Earl e Dr. No. Will not be too long. I say my people are starving. But your money's running. I say my people are starving. But your money's running. E questa si chiama Leaving Babylon, lasciando Babilonia. E ora passiamo a Distruggi Babilonia. Bad Brains, Destroy Babylon. Questo è Sailing On, dal loro primo CD, 1982. Dal vivo al paradiso di Amsterdam. Reignition. Sono sempre Bad Brains. Hired Gun. Hired Gun. Hired Gun. Hired Gun for sale. Hired Gun. On the run. He won't fail. Requesting quick, they ask our people. Where is our Hired Gun man's trail? Turned into a dark old gun. With the quickness, Bad Brains. E sono le 0:41. E stai sempre ascoltando Radio Onda Rossa. E questa è la 25esima ora. Attitude. Dai che poi fai il come again. Comunque il Banana ha messo tutti in fila, eh. E pensavo onestamente che conosceva solo un gruppo, perché mi sembra. Ma è vero, conosco solo Bad Brains. E basta. Attitude. Abbiamo scoperto. Non e di seguito Riot Brigade. Questo è Cool Mountaineer, il fico montanaro, per tutti i montanari. Yeah. e sempre con i Bad Brains sotto. Questa era la selezione del Banana. Bella Banana. The Justice Keepers. The Justice Keepers. The Mezzanotte 50 qui a Radio Onda Rossa. 87.9 MHz di frequenza. 0649 1750. Sono gli Om dal loro ultimo disco Advaitic Songs, che usiamo spesso qui a 25 o'clock come arma. Possiamo andare? Vai, vai. Prego. Allora, due giorni per The Gage. Oggi uno è già passato. E infatti parliamo di quello che è successo oggi, mercoledì 20 marzo. C'è stata un'assemblea di sociologia alla Sapienza di Roma, all'interno del percorso di riappropriazione The Gage Casa per Tutti, che ha organizzato un incontro con la Verdi 15 occupata di Torino, la libreria autogestita ex QM di Milano, il CUA di Bologna e la mensa occupata di Napoli. E invece domani sera 21 marzo dalle ore 22, sempre a Fisica alla Sapienza, ci sarà una festa sempre nell'ambito di questa due giorni per The Gage, a cui parteciperanno, anzi suoneranno, Cuba Cabal, Serpe in Seno, DJ Orz. E quindi domani 21 marzo alla Sapienza. Ma tu ci vai? No, non no, posso. No, perché lui dice che è grande. Però una persona. No. Come la riunione. Comunque legge con maestria. Beh, lui è lo speaker ufficiale. Sì, sì. Qui abbiamo tutto. Professionalità. Il pagamento. Beh, quello poi ci accordiamo a microfoni spenti. Ah, poi. Ci tiriamo indietro alle richieste fatte dal Banana in diretta. Ti paghiamo sicuramente. E con precisione ti posso dire che ti pagheremo quando arriverà la 25esima ora. E quando arriverà la 25esima ora? Ma la 25esima ora è l'ora rubata ai tempi e ai ritmi del consumo e della produzione. Quindi comunque, se qualora ti pagassimo, sarebbe un provente illecito. Comunque la 25esima ora è un'ora sempre più tardi. Vediamo se ce la faccio a trovare sta mail. Già oggi abbiamo mandato un paio di ore di diretta all'incirca nel tardo pomeriggio per trasmettere appunto quella che è stata l'assemblea della Valle, assemblea pubblica e rimandata radiofonicamente attraverso insomma le radio del circuito che più o meno conoscete, vicino a quello di Radio Onda Rossa. E appunto assemblea che indiceva poi quella che sarà la grossa manifestazione Notav in Valsusa, Bussoleno, sabato 23 marzo 2013, ritrova alle ore 14 a Piazza d'Armi, stazione ferroviaria di Susa. Potete andare a cercare magari in internet le modalità con cui raggiungere la valle, appunto per ribadire. Già ci stanno molte polemiche intorno alla vicenda appunto della Valsusa con presidenti insomma dei sindacati di polizia che mandano mail in giro piuttosto arroganti, eccetera eccetera. Quindi è possibile appunto andare a cercare su internet tranquillamente gli appuntamenti. È abbastanza diffusa la notizia insomma per i pullman in partenza appunto per Bussoleno il 23 marzo 2013, sabato prossimo. Quindi? Siamo scomparsi. Eh sì, è il fantasma, i controlli. Però, questi qui possiamo usare l'effetto Larsen comunque. Che... Oppure possiamo fare cantarvi qualcosa? Sì, no, è meglio di no. È meglio così. Ormai è andata così. È ineluttabile. con gli uomini raggiungiamo Luna. E andiamo a scandire il tempo. Di quest'ora appena scoccata. Un'altra ora rubata. Ai ritmi infami che rubano la nostra libertà. E ne abbiamo rubata un'altra. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale, in tutte le sue infami forme. Allora, la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui, riprenderà domani con il consueto palinsesto della radio a partire dalle 8 con la lettura delle prime pagine e delle rassegne, e poi la rassegna stampa e la rassegna stampa cittadina, i vari redazionali della mattina, fino ad arrivare all'ora di pranzo, quando ci sarà il GR, lo spazio di comunicazione a seguire, Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. E ancora Attica Blues, oltre alla Black Music, La Schiena del Sol, Bella Martis, Profondo Rosa alle 18.30, il giornale radio alle 19.30, spazio comunicazione a seguire, alle 20.15 Allegro con Fuoco, a seguire Noctibus Panis in replica, e poi dalle 22, come da un po' di tempo a questa parte, direttamente Apostasia, che è un po' la trasmissione cuginetta nostra. E noi vi andiamo a salutare sotto la luna comunista. Under Communist Moon, bella così, a risentirci. Bella. Let it begin to